Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16 e 34 minuti, un buon inizio di settimana. Oggi è lunedì, siamo in collegamento, io sono Luca Tremolade, siamo in collegamento con Alessandro Longo, giornalista esperto di tecnologia, ma soprattutto di telecomunicazioni. Buongiorno Longo. Buongiorno Luca, ciao a tutti. Ciao a tutti, pimpante come sempre, noi prima ascoltiamo le news, poi ritorniamo da Longo. Il mercato ebook nel 2010 varrà il 5% di quello del libro negli Stati Uniti e lo 0,1% in Italia. È in effetti ancora poco, ma è il triplo rispetto al 2009. Lo rivelano dati di AIE e IDPF comunicati oggi e saranno inclusi in due studi che verranno presentati venerdì a Milano. Facebook ha generato ricavi tra i 700 e gli 800 milioni di dollari nel 2009. È una stima superiore alle previsioni, quella che fonti interne all'azienda hanno confidato all'agenzia di stampa Reuters. Secondo Comscore, inoltre, gli utenti di Facebook sono a quota 520 milioni, contro i 411 di 10 mesi fa. Arrivano le telefonate ad alta definizione su cellulare. Avviene nel Regno Unito con una sperimentazione dell'operatore mobile Orange. Per la prima volta in Europa, se si esclude un piccolo test fatto da Orange in Moldavia, diventa possibile chiamare con i cellulari a una qualità superiore a quella della rete fissa. Allora, ci siamo dimenticati di dire il tema della puntata, Longo. Infatti, internet che arriva sulla TV, o per meglio dire, contenuti, applicazioni, servizi interattivi che sono disponibili anche sulla TV di casa. Sì, infatti, insomma, parliamo della TV che cambia, della TV che ha scoperto, tra l'altro, internet da pochissimo, cioè da un paio di anni. Tutti abbiamo sentito parlare della Google TV, tutti sentiremo parlare di widget, di applicazioni che si installeranno dentro al televisore, nessuno però ha capito realmente dove stiamo andando a parare, non è vero? Ci sono tantissimi servizi molto, molto frammentati, molti ci provano, possiamo dire che ci provano tutti i grandi, quelli, i big dell'internet, i big dell'informatica, da Microsoft, ad Apple, a Google, insomma non manca proprio nessuno, c'è anche Yahoo. E infatti noi abbiamo proprio chiamato, giustamente, visto che c'è anche Yahoo, abbiamo chiamato Yahoo per spiegarci innanzitutto cosa stanno facendo sulla televisione e poi che cosa sono diventati. Ma prima partiamo dalla televisione, abbiamo qui con noi in studio Davide Corcione di Yahoo, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'invito è quello di ascoltare insieme a noi la scheda che ha preparato Alessandro Longo sulle televisioni e poi vediamo di commentarla insieme. La scheda. Smentiamo innanzitutto un luogo comune. Gli utenti internet europei non vedono meno TV rispetto a prima. Anzi, dal 2007 al 2009 hanno addirittura aumentato le ore di fronte allo schermo. Stima Forrester Research. Solo hanno cambiato il modo di guardare la TV. Sempre più spesso lo fanno con un PC sulle gambe, scambiandosi messaggi o scrivendo commenti sui social network, magari proprio su quello che stanno vedendo in TV in quel momento. Così si spiega perché Google ha deciso di lanciare una piattaforma che porta web e applicazioni internet sul televisore. Ha capito che gli utenti erano pronti ad accedere a certi contenuti direttamente dallo schermo televisivo, invece che dal PC sulle ginocchia. Per ora si sa che la cosiddetta Google TV sarà integrata in una TV Sony in uscita quest'anno negli Stati Uniti. Ma non è che la punta dell'iceberg. Nel giro di 4 anni saranno 128 milioni le TV dotate di internet in Europa, secondo Instat. Cioè 10 volte in più rispetto ad oggi. I principali soggetti del mondo web e dell'informatica ci stanno puntando. Ma quale formula e quali contenuti avranno successo in questo nuovo modo di concepire la TV? Allora, lasciatemi sottolineare il numero: 128 milioni di televisori dotati di internet, 10 volte in più rispetto ad oggi, vero Longo? È quello che dicono le previsioni, ci sì. Possiamo solo fidare. Ma insomma, mai fidarsi, noi siamo sempre un po' cauti, però insomma il tema è che il matrimonio televisione-internet sa da fare, vero Corcione? Perché tra l'altro internet ha senso internet sul televisore? Cioè lo stesso Longo si domanda quali forme e quali contenuti avranno successo. Avete voi un'idea, visto che ci state lavorando? Bella domanda, e come sempre è difficile avere la palla di cristallo e vedere il futuro. Quello che possiamo dire è quello che stiamo facendo come esperimento, e quello che possiamo vedere, abbiamo visto nel passato, come sempre su internet si fanno, ci sono delle idee, le aziende hanno delle idee e provano a realizzarle e poi alcune di queste hanno successo e altre no. Nel passato, se vogliamo, abbiamo già visto esperimenti di tentativi di utilizzare la televisione come device, più che altro come schermo per andare su internet, e mi sembra che nel passato non ci siano stati grandissimi successi. Oggi bisognerebbe capire, abbiamo detto, i televisori, gli utenti internet guardano più televisione, però lo guardano con un televisore, con un PC in grembo, proprio perché il media meshing, quello che si usa a dire in gergo, quindi l'utilizzo di più media contemporanei, è sempre più diffuso, specialmente nei giovani e nei giovanissimi. Praticamente è lo studente o il giovane che guarda la TV da sul divano con un portatile sulle ginocchia, un matto per certi, diciamo, però insomma ha un suo senso, perché con il portatile che cosa fa? Interviene, manda sms, però di solito dovrebbe fare cose che poco o nulla hanno a che fare con la trasmissione, o al massimo sono la twitterata, cioè il commento attraverso Twitter della trasmissione, bello brutto. Nel caso dei mondiali qualcuno li segue anche con Facebook acceso. Ecco, ma sulla televisione invece che cosa diventerà? Sarà semplicemente lo schermo del monitor, del portatile che si sovrappone a quello della trasmissione? Questo sarebbe sicuramente riduttivo, a mio parere, e forse inutile, perché alla fine esistono già i portatili, quindi perché dover utilizzare lo schermo della TV? Sicuramente la televisione diventerà uno dei tanti device casalinghi connessi a internet. Ormai con le reti wifi che cominciano a diffondersi in tutte le case, anche la televisione sarà connessa via wifi e internet. Ma farci che cosa? O da una parte riusciamo a far diventare il televisore una specie di computer, però se pensiamo a chi ha già un portatile, forse è inutile utilizzarlo anche soltanto come device per andare su internet, quindi avere un computer collegato alla televisione, sì, interessante per me vedere magari dei film, ma probabilmente inutile se si ha già un PC in grembo. Probabilmente la cosa più utile potrebbe essere l'integrazione tra i contenuti che ci sono sulla televisione e quello che è il normale modo di fruire contemporaneamente alla televisione dei contenuti, oppure andare su internet. Quindi probabilmente abbiamo da una parte il tipo di utente, come diceva lei prima, che vuole coinvolgere altri suoi amici o comunque dare dei commenti su quello che succede, quindi guardando un contenuto fare delle attività online legate a quel contenuto. Oppure potrebbe esserci della fruizione di contenuto contemporanea, mentre guardo la mia televisione, la trasmissione favorita, vado a vedere che tempo fa, vado a vedere il meteo, vado a vedere le news, piuttosto che vedo lo status dei miei amici o cosa stanno scrivendo su Twitter. E queste forse sono le cose più due estremi, cioè i due particolari vocazioni che potrebbe avere. Esatto, questo potrebbe essere, oppure la terza scelta è proprio far qualcosa di completamente diverso, però a mio parere andare a vedere una pagina web, quello potrebbe essere la cosa completamente diversa e avulsa al contenuto che in qualche modo... Tra l'altro, mi si consenta un'osservazione. Io sono stato tra coloro che quando è nato il digitale terrestre l'ha analizzato dal punto di vista tecnologico e ha scritto ci saranno una mirabilia di nuovi canali. Ti ricordi, Longo? L'abbiamo scritto tutti e tutti ci siamo un po' pentiti, devo dire, perché è vero che la tecnologia consente questi canali, ma io proprio ieri pomeriggio mi sono fatto una scanalata e insomma su un canale ci sono ballerine o ginnaste che rassodano il corpo attaccate a macchine più o meno strane, dall'altra parte televendite, altri canali mettono in mostra delle sorte di danni popolari, cioè insomma è complicato pensare che da questa tecnologia, cioè che questa è la novità, che questo è nuovo, no? Ma guarda, a livello tecnologico il digitale terrestre è già morto, ce lo dicono tutti gli esperti, è una tecnologia vecchia, è nata vecchia. Il canale di ritorno, cioè quello che permette all'utente di comunicare con la TV sul digitale terrestre, è tutto carente, non è nemmeno paragonabile a quello internet. Quindi è impensabile potersi fare dei servizi interattivi. Tra l'altro però il tema è anche un altro, è che evidentemente poi una volta che tu hai una piattaforma tecnologica, bello brutta che sia, devi anche consentire al mercato di esprimere dei canali, quindi dei contenuti. Questo credo che non sia un po' anche questo uno dei motivi per cui insomma forse non è così soddisfacente il digitale terrestre. Io credo che l'unica innovazione che possiamo aspettarci dal digitale terrestre è quella sui contenuti, cioè ci potrebbe essere una coda lunga di contenuti perché ci sono tanti canali in più, e quindi questa è l'unica cosa che... Ma questo è quello che poi abbiamo scritto 4 anni fa, se non sbaglio, perché poi però, cioè, è bella l'idea della coda lunga, però poi non è successo. Però chiediamo anche Corcione, ma la coda lunga, lei ci ha creduto? Anche lei è caduto in questo piccolo, non inganno, però... Ma è facile dire di no col senno di poi. Sicuramente le persone cambiano abitudine e modo di fruire i mezzi quando veramente c'è del valore aggiunto per loro. Secondo me utilizzare la televisione per fare altro quando di base trasmette delle informazioni, trasmette dei contenuti, non ha molto senso trasformarlo in un computer. E quello che in prospettiva io posso vedere è, al posto di utilizzare il portatilino in grembo e di fare le stesse cose, si possono fare cose simili sulla... Si possono che non fare è caduto, io la volevo portare a commentare il digitale terrestre, lei digitale mi ha un po' terrestre, sviato. Sì. Va bene, è andata bene. Nova Lab 24. Bentornati a Nova Lab 24, 16:46, abbiamo parlato di digitale terrestre, abbiamo parlato di nuova televisione e abbiamo chiesto a Alessandro Longo di immaginarsi quelli che potrebbero essere i servizi del futuro su una televisione connessa a internet. Sentiamo la scheda. Nei decenni la qualità tecnica dei televisori è molto migliorata, ma la sostanza di fondo è restata la stessa. Si sta di fronte a uno schermo a vedere quello che ci propongono. L'innovazione di questo aspetto è appena partita e ancora fatica a diffondersi, ma ha davanti a sé un vasto orizzonte. Immaginiamo di poter accedere dalla TV a un catalogo con tutti i film e gli spettacoli prodotti nella storia, di poter zoomare su un giocatore durante una partita e far partire i video dei suoi gol più famosi, oppure di visualizzare i tweet dei nostri amici che commentano le azioni di gioco. A un certo punto c'è un rigore e la TV ci dà 10 secondi per fare una scommessa sull'esito. Alcune di queste cose sono già possibili, anche se solo su pochi modelli, oppure grazie a un decoder internet da collegare al televisore. L'offerta però sta crescendo a vista d'occhio, e l'ultima novità sono applicazioni che l'utente può scegliere e aggiungere alla propria TV come farebbe con uno smartphone. Il rischio principale? Che l'offerta resti frammentata, per difetto di accordi tra le parti. Non vorremmo certo essere costretti a comprare 2 o più televisori per avere tutti i servizi o contenuti internet che ci interessano. Oh, certo che no, ma Yahoo che cosa sta facendo oggi per la TV interattiva? Ricordo che stiamo discutendone con Davide Corcione, appunto, di Yahoo. Sì, quello che sta facendo oggi Yahoo è la chiamiamo Connected TV. Connected TV significa dare la possibilità agli utenti di fruire di alcune applicazioni su internet che chiamiamo widget, quindi delle piccole apps, se vogliamo, da aggiungere al televisore. E queste apps permettono di fruire contemporaneamente, mentre si guarda del contenuto, si possono fare altre attività, che possono essere delle attività tipo il cliente di Twitter, piuttosto che vedere il meteo, le news. Cioè il trionfo del multitasking, il trionfo della persona strabica che guarda 3 cose contemporaneamente. Ma è la risposta al media meshing che dicevamo prima. Un utente oggi vuole contemporaneamente fare più cose col proprio televisore. Cioè io non credo che queste applicazioni sostituiranno il PC, sostituiranno la televisione. Si aggiungono, insomma. Si aggiungono, quindi voglio fare più cose contemporaneamente, posso farlo se ho acquistato alcuni televisori. Certo che chi scriverà programmi non sarà contento del fatto che, perché prima era abituato a una splendida passività, cioè lo spettatore è lì, guarda il suo programma, è bene, adesso insomma lo spettatore ti disintermedia da un certo punto di vista. È vero, però sarebbe semplicemente chiudere gli occhi nella realtà dei fatti. Oggi gli utenti già semplicemente non si guarda cosa succede al di là del televisore, ma già oggi mentre un canale si visualizza una trasmissione, l'utente si alza, fa tante altre cose, guarda il computer, guarda il cellulare. In quel caso si potrebbe anche monitorare cosa fa il telespettatore, vedere come interagisce come potrebbe interagire con le applicazioni. Allora, il fatto che voi siate qui a raccontarmi di TV interattiva a un ascoltatore poco attento nel mondo delle tecnologie potrebbe dire: ma Yahoo non erano quelli del motore di ricerca? Ed è vero, voi eravate quelli del motore di ricerca, ma anche chi segue questi argomenti come il sottoscritto nelle ultime tre settimane ha scoperto che vi siete acquistati per alcune decine di milioni di dollari un produttore di contenuti, cioè di articoli. Poi avete comprato Coprol, una sorta di Foursquare dell'Indonesia. Insomma, Yahoo sta diventando complicato da inquadrare. Che cos'è che siete voi? Bella domanda. No, quello che Yahoo è ed è sempre stato, semplicemente che magari in certi momenti della sua storia si sono visti alcune realtà che altre, Yahoo vuole essere il punto di riferimento per la vita digitale di tutti gli utenti internet, e per farlo deve offrire dei servizi con tutte le modalità, in tutti i canali che l'utente internet utilizza. Quindi una volta si utilizzava puramente il browser con il PC, quindi semplicemente internet tramite il PC. Oggi si utilizzano i telefoni cellulari, gli smartphone, quindi Yahoo continua da sviluppare. La cattiveria è che c'è Google che si fa le ricerche, Bing, aiutate un po' Bing, Microsoft, e voi vi siete messi a fare la cattiveria, cioè un'idea all'editore, cioè da un certo punto di vista, no? Sì, noi abbiamo no. sempre fatto l'editore, abbiamo sempre fatto la search, abbiamo sempre fatto il mobile, abbiamo sempre fatto praticamente tutto lo spettro di attività che possono essere legate ad internet. Come dicevo prima, non per niente sull'iPad appena è stato lanciato abbiamo lanciato le prime applicazioni, non per niente sulla search abbiamo fatto l'accordo con Microsoft per essere più forti e competere meglio sul mercato. Cerchiamo di seguire tutti gli ambiti dove l'utente va, noi cerchiamo di esserci. Ma Coprol, l'ultima battuta, sta finendo il tema? No, perché Coprol è un bel tema. Quando è venuta fuori la notizia in tre ci siamo messi a cercare di capire cosa fosse. Cos'è? Coprol è una realtà che si occupa di social network, una specie di Foursquare dell'Indonesia. Ah, giusto, quindi. È una realtà... Cioè, quindi volete andare in Indonesia sulla geolocalizzazione? Sì, ma soprattutto i paesi dell'estremo oriente o i paesi dove hanno un accesso di internet più basso del nostro, ci sono amplissime potenzialità. Tutto il mondo sta andando su internet e noi ci siamo sempre focalizzati principalmente sull'Europa. L'Asia è un paese ricco di opportunità, la nuova frontiera. Sava Sandir, benissimo, io ringrazio Corcione, ringrazio Alessandro Longo che ha parlato pochissimo ma si rifarà presto. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, grazie. E grazie, e diamo la linea allo studio e ricordiamo che Nova 24 domani 16:30 stessa ora. Arrivederci. Nova Lab 24.